lungo tempo ancora, ma che i protestanti credenti sono preparati a tendere la mano ai cattolici, se i cattolici non insistono troppo sotto dottrine speciali, si può venire ad una, noi diciamo oggi unione, ma forse sarebbe un poco esagerato. E pensa che quando la Chiesa sarebbe libera del potere temporale, potrebbe prendere il leadership negli affari religiosi del mondo, che non ci sarebbe molto a venire per l'ortodossia, neanche per il protestantesimo. E si vede che in questo giudizio deve tenere conto che questa negativa vista del protestantesimo è interessante come corollario che anche i protestanti del tempo avevano l'opinione che la Chiesa cattolica non durerebbe fino al prossimo secolo, che la Chiesa cattolica potrebbe rimanere soltanto, diciamo, in Sicilia e nelle monti, nelle Abruzze e nei monti del Tirol, e poi sarebbe finito. Questo si trova nei due lati. E in 1860 Dellinger ha avuto una riunione, non mi ricordo adesso se ha assistito personalmente, no, non mi pare che ha assistito personalmente, ma con tutta la sua personalità e per corrispondenza ha sostenuto l'idea di un convegno fra protestanti e cattolici, di un ambiente dove l'iniziativa partiva di un ambiente di protestanti conservativi, parecchi sono stati sull'influenza di Heinrich Leo, uno storico tedesco, un altro sarebbe stato un uomo allora che non conosciuto di nome Folk, il barone Gerlach, terzo aristocratici protestanti del nord, ma simpatici piuttosto verso il cattolicesimo romano, e poi allora un amico che era legato, un professore di Halle, di nome Daniel, geografo e teologo, insegnante in un liceo protestante, del quale ho pubblicato la corrispondenza con Dellinger 15 anni fa. Qui è il primo, Dellinger era il più importante allora dei simpatizzanti cattolici con questo gruppo. Non è rappresentativo per il protestantesimo, ma è rappresentativo per un protestantesimo di una certa via media, che forse esagerava presso Dellinger la prontitudine dei protestanti a dialogare con i cattolici. Quello che è importante, siamo negli anni 60, raccontati adesso per la prima volta come membro e segretario della Commissione Storica dell'Accademia di Baviera, con i grandi storici dell'epoca, e c'è una parola molto rivelatrice di questi contatti, quando uno dice, non so chi più chi sia, non era Rank, ma un altro protestante che gli dice, noi potremmo collaborare se non ci fosse questo Papa Pio IX. E abbiamo già accennato nella prima parte l'importanza della conferenza di Monaco e vi prego di vedere quel testo che vi è stato distribuito mi pare che si trova lì. La pagina 88. 88? Quello della mattina. Di questa mattina. No, però mi parla 84 o 87. No. 88. 88 89, ho dato da fare. Bella giacca. Ma 85 86. No, è 87. Invece c'era 89, ma si capisce che siamo rimasti, c'è stato un disguido con la riproduzione. Allora 88 89 io ho dato da fare, e 94 95. 94 95. Facciamo in tempo a farlo adesso? Sì, io penso che adesso forse dipende di voi, perché il testo non è originale, è estratto del mio libro di io posso dare un sommario. Allora facciamo adesso, non so se non è una cosa originale, perché è un estratto del mio, non sì, abbiamo il testo. È a pagina 88-89 del libro del professor Contenu, Profete und Verleuchter, che rimane qui in istituto per chi, ecco, sì. Io faccio una breve traduzione per vedere. L'abbiamo in istituto, ecco. Per tradurre. Oder könnte ich Deutsch? Ja, ich glaube, das wäre vielleicht besser. Uns allein, unter allen Völkern, ist das Geschick widerfahren, dass das scharfe Eisen der Kirchentrennung mitten durch uns hindurchgegangen ist und in zwei fast gleiche Hälften uns zerschnitten hat. Sollte die deutsche Theologie sich nicht als der Speer des Telephus erweisen können, welcher die Wunde erst schlägt und dann heilt. Deutsche Theologen haben die Spaltung begonnen und genährt. So hat denn auch die deutsche Theologie den Beruf, die getrennten Konfessionen einmal wieder in höherer Einheit zu versöhnen. Mi pare che questo parla dei tedeschi, ma il quadro nel quale questa riflessione si trova è una, non vuole discreditare gli altri teologi, ma vuole sottolineare la missione speciale e specialissima, la felix culpa, come direbbe Lord, dei teologi tedeschi, di poter adesso lavorare per vincere la divisione dei cristiani. E allora cita tre condizioni. Die erste Bedingung ist die, dass unsere Wissenschaft das wahre Trennende und Unkatholische, das heißt, dass dem Gesamtbewusstsein der Kirche aller Zeiten widersprechende und die Kontinuität der Überlieferung zerstörende in der Lehre der Gegenseite mit allen ihr jetzt mehr als je zu Gebote stehenden Mitteln überwinde, wofür noch sehr viel zu leisten übrig bleibt. Primo quello che non è cattolico, dobbiamo lasciarlo. Il secondo, die zweite Bedingung, dass sie das die katholische Lehre in ihrer Totalität mit dem kirchlichen Leben, ihrem organischen Zusammenhang und ihrer inneren Konsequenz zur Darstellung bringt. Dass sie dabei aber auch das Wesentliche, Bleibende scharf unterscheide von dem Zufälligen, dem Vorübergehenden und der Idee fremdartigen Auswüchsen. Dieses ist noch durchaus nicht geschehen. Das ist il secondo punto, distinguere fra l'essenziale e l'accidentale, quello che rimane e quello che passa. Mi pare che questo è una formulazione anticipata della gerarchia delle verità del Concilio Vaticano II. Terzo, die dritte Bedingung wäre, dass die Theologie und durch sie die Kirche die Art und Kraft jedes Magnetberges der Fabel annehme, der alles Eisen aus dem nahegekommenen Schiff herauszog, dass es auseinanderfiel. Ich meine, dass sie sorgfältig von dem beigemischten Irrtum ausscheiden und dann frei und offen akzeptiere, ja als das rechtmäßige Eigentum der einen wahren Kirche, die dies alles im Keime wenigstens und in der Anlage besessen habe, in Anspruch nehme. Der Irrtum lebt ja nur von den Wahrheitskörnern, die er in sich trägt, die er denn in gar vielen Fällen auch nur die Karikatur einer verlorenen Wahrheit ist. Terzo, la teologia deve come un magneto tirare tutte le buone cose dei delle altre confessioni e di lasciare quello che non può accettare perché è errore e allora integrarlo come la Chiesa che ha nell'inizio possesso tutto questo nel semine. Perché l'errore vive soltanto dei piccoli spicci di verità che ha in sé, come l'errore in molti casi è soltanto la caricatura di una certa verità. Questo al mio parere è l'illustrazione di una parola di San Agostino che sviluppò. Io penso che per negli anni 30, negli anni 20, questi sono stati i principi ecumenisti cattolici negli anni 30, 40 fino al secondo concilio vaticano. Poi veniamo nel concilio vaticano primo e forse non andrò qui negli dettagli perché nella è sempre l'elemento biografico importante per il pensiero di Döllinger, che diceva che io non posso accettare questa dottrina dell'infallibilità, non come teologo, non come cittadino e non come cristiano. Come cristiano pensava che infallibilità e primato eh, unterstützten eine unlimitierte Herrschaft des Papsttums. Come teologo voleva che i cattolici prendevano una nuova vista della storia e delle l'esegesi sopra la tradizione. E come cittadino voleva andare contro l'apparizione di una autocrazia papale. Quel libro del Janus, che forma la sua pubblicazione principale contro l'infallibilità pontificia e contro lo sviluppo dei poteri del Papa, era originalmente non in un contesto polemico, ma doveva, secondo la sua mente, fare parte di un libro sulla cattedra Petri e andare in direzione con un'interpretazione del papato che sarebbe stato accettabile per protestanti e ortodossi. Nel terzo periodo, adesso, dopo il Concilio Vaticano I, Dellinger diviene interessante per i protestanti e meno forse per gli ortodossi. Allora fa una iniziativa che è l'unico, si può dire, più importante conferenza religiosa del secolo fra protestanti, cattolici, protestanti ortodossi ed anglicani, sono i conferenze di Bonn. I vecchi cattolici non sono stati lì come una confessione, perché Dellinger non era mai vecchi cattolici, ma sono stati lì come individuali, come persone individuali. E Dellinger è stato la forza motrice dietro a tutto questo incontro. Nella preparazione, nell'invitazione e parecchi vecchi cattolici l'avevano aiutato in questo. Come si spiega in questo momento, questa riunione? Ci fu certamente un intendimento anticattolico romano fra protestanti e cattolici. Io devo dire anche che non sono stato i protestanti tedeschi, ma parecchi individuali che avevano preso parte lì, e che tutta la discussione si concentrava sul Concilio di Trento e l'inserzione del filioque. Dellinger fu eletto presidente e diceva che lui e i suoi colleghi non si sentivano legati per tutti i decreti di Trento, che non potrebbe essere considerato come concilio ecumenico. E i rappresentativi delle chiese del West dicevano che il filioque avrebbe fu messo di maniera illegale nel credo. I 14 punti sono stati discussi fra anglicani e i vecchi cattolici presenti come individuali. L'anno scorso, l'anno dopo, in 75, Dellinger voleva andare un poco più in avanti e discutere le differenze dogmatiche fra la dottrina, dietro la dottrina della processione dello Spirito Santo. E il professor Osinin di San Petersburg gli domandava di ritornare alla base della Chiesa indivisa, non divisa, e dei sette primi concili ecumenici. Gli anglicani e i vecchi cattolici facevano un gran sforzo di distinguere fra il dogma e l'opinione teologica, ma gli ortodossi non sono stati capaci di, in quel momento, di seguire questo metodo, in modo che Dellinger aveva molta difficoltà di prevenire una dissoluzione di queste discussioni. E pensava che le differenze fra ortodossi e latini sulla processione dello Spirito Santo sarebbero stato l'effetto di una misinterpretazione terminologica. E basandosi su Santo Giovanni di Damascus, faceva il punto che in realtà ci fu una concordanza dogmatica su questo punto. Ma la sua conclusione fu troppo ottimistica. I delegati di Bonn sono stati individuali, senza missione speciale, delegazione speciale delle loro chiese, quando sono tornati a casa, hanno ricevuto opposizione. Piusi, per esempio, in Inghilterra non fu d'accordo con Dellinger perché pensava che il filioque dovrebbe rimanere nel credo, la formulazione del credo. E poi ci sono state tensioni politiche fra la Russia e l'Inghilterra che hanno reso una discussione impossibile. Dovrei dire ancora che in 72 Dellinger ha fatto delle conferenze a Monaco, conferenze generali sulla riunione della Chiesa, che sono anche una preparativa di questa conferenza di unione di Bonn. E poi c'è stata ancora la propaganda di certi convertiti contro Dellinger e contro i vecchi cattolici, in modo che non ci fu più scopo di ripetere questa iniziativa. E con 76 o 75 non abbiamo più, dopo 75, una iniziativa di riunione sotto l'ispirazione di Dellinger, che continuava in questo tempo a tenersi fuori delle questioni teologiche e di concentrarsi su problemi della storia mondiale e universale sulle conferenze che dava nell'Accademia di Baviera. Questo è una breve, e ho temuto un poco troppo, perché sono un poco, in questo momento mi mancano un poco le parole, un resume dello sviluppo del pensiero ecumenico, dell'attività ecumenico di Torino. Ma forse mi risveglio un poco se mi ponete delle questioni. Il problema centrale è quello mi sembra uno dei problemi centrali, è quello dell'universalismo, e torniamo un po' anche ai temi di prima, cioè non è della funzione universale della Chiesa romana e con che cosa sostituirla, insomma, no? Sostanzialmente. Quando lui appunto dice anche a rappresentanti italiani, insomma, l'universalismo della Chiesa è una idea medievale, ma non si è ancora trovato nulla con cui sostituirlo, no? Questa è un po' la sua preoccupazione, cioè di evitare da una parte lo scisma in senso così alt-cattolico, sì. E dall'altra una forza coagulante penso per lui fosse lo Stato, no? Sostanzialmente, però ecco, ne diffidava. Cioè, in che termini si pone di fronte allo Stato? Perché queste sue simpatie per il Bismarck, un po', no? O queste... Non sono state molte, non sono state grandi, tanto grandi, no? No. No, più piuttosto allora nella lotta di... No. Adesso io vado un po' qua e là, ma insomma, lui vedeva nello Stato, ecco, cioè mi sembra che lui vedesse nello Stato l'unico elemento su cui far leva dal punto di vista istituzionale. Per una organizzazione ecclesiastica che non fosse appunto una posizione eretica o scismatica di tipo individuale, però che diffidasse dello Stato in modo tale da non poter fare, da non voler far leva sullo Stato. Per una ricostruzione di un universalismo che non fosse appunto papalista o romano. Sì, sì. Per esempio le sue simpatie per l'anglicanesimo, ecco. Sì. Un po' confuso, ma insomma sì. Il rapporto politico e ecumenismo, ecco, questo è un po' il problema che volevo porre sostanzialmente. Cioè, io direi che la sua distanza verso lo Stato, allora, che è quello si trova nel rapporto di 87 dell'ambasciatore italiano, ha già maturato. Negli anni 74 io non dicevo che sopportava Bismarck e tutto questo e la lotta con, mi diceva che la lotta della Prussia contro la Chiesa romana è la conseguenza logica delle pretensioni esagerate della Chiesa romana, e in quello tempo aveva una certa simpatia per lo Stato che si proteggeva, come diciamo così, contro questa invadenza romana. E anche in questo periodo ci fu una certa speranza che si potrebbe formare come una alleanza antiromana delle chiese, diciamo, ragionevoli, e dei cristiani ragionevoli, dei cristiani che aveva ragionevole dei cristiani in quel tempo, ma dopo negli anni il fallimento, fallimento del Kulturkampf, in tutto questo allora diceva, si diceva, e anche vedendo la la difficoltà, la posizione dei greci, la posizione, l'influenza politica della politica russa sopra i teologi russi con i quali parlavano, e la divisione fra gli anglicani abbandonava anche tutto questo. Io penso che queste riunioni e anche i discorsi sulla riunione del cristiano sono stato un poco il frutto di una certa euforia, si può dire, di una comunità di una comunione anti-romana dopo 70. Vede? Ci sono stati alcuni anni, insomma, tra il 70 e il 75 di speranza che si potrebbe venire ad una riunione tra cristiani. Nelle sue attività di questo tempo non abbandonava l'idea che è più vecchia di una intendimento fra le confessioni, non l'abbandonava, ma la concretizzazione che faceva delle difficoltà enormi dopo, come l'ha esperto a Bonn. No, è una posizione essenzialmente tragica quella degli ultimi anni, forse anche perché è campato tanto, ecco. Ah, forse perché è vissuto così tanto, la posizione tra gli 80 anni e i 90 è di un isolamento così assolutamente tragico, insomma. Ecco. Ma è un secolo di fondamenti essenziali, no? Anche nel quadro vede la restaurazione e poi passa dal pensiero della restaurazione a quello del liberalismo, e adesso dovremmo vedere un po' il liberalismo cattolico, e poi il grosso problema dei rapporti Stato Chiesa l'aveva già affrontato nel 49, nel 48 a Francoforte, no? sì. La separazione tra dei due poteri, no? E una cosa che è interessante anche per il suo sviluppo personale, per chi vive tanto tempo negli ultimi anni, e questo non perché non ci sono molte corrispondenze e molte testimonianze su questo, ma lo che si può vedere, ha anche una certa diffidenza verso il dogma tale quale. Vede che il dogma produce delle divisioni, e che divisioni allora dividono gli uomini, allora trova una prova su questo, allora forse una, nel senso positivo, è il suo giudizio sugli ebrei, quando in 43-45 si discutava allora a dare i diritti politici agli ebrei in Baviera, fu piuttosto riservato, diciamo più riservato, ma 40 anni dopo ha fatto uno dei più belli del quale esistono almeno 4 o 5 allora edizioni di Juden in Europa, dove conta la tragedia del popolo ebreo nell'ambiente cristiano. E si vede che in tutta ci sono parecchi aussagen, statements, dove considera il dogma tal quale molto più negativo che nella sua gioventù e nella sua età matura. Volevo ricollegarmi a quello che diceva il professor Corsini a proposito della sua posizione nel 48, cioè a proposito delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa. Mi sembra che lì, in quel momento lì, la posizione del Dellinger è sostenitrice di una separazione che però dovrebbe giovare alla Chiesa, nel senso che in quel momento è lo Stato che, direi, cumula i pesi del giurisdizionalismo e della secolarizzazione, no? E che quindi ha ridotto la Chiesa in una condizione di assoggettamento, no? Di assoggettamento. Quindi una divisione che dovrebbe giovare alla Chiesa per liberarla di una serie di pesi. No? Sì. Invece mi sembra che se coincide, sì sì, io lo interpreto, cioè la interpreto, la arricchisco anche del significato opposto, nel senso che coincide con quella che era la tesi liberale fin da allora della separazione dello Stato e della Chiesa per la salvaguardia di tutti e due. È la posizione rosminiana quella che Bellinger ha nel 1944, sicuramente. La Chiesa deve liberarsi, non deve pretendere di entrare nelle questioni dello Stato, davvero, perché viene coinvolta e nella separazione resta più libera, ma contemporaneamente resta più libera anche lo Stato. Sono due tesi che sono più... Io avevo l'impressione che fosse una situazione un po' diversa, la Germania in quel momento e l'Italia dopo, insomma. Ci fosse qualche spazzatura, tra l'altro per l'Italia il problema della presenza di uno Stato pontificio che complicava tutta il panorama, diciamo, che era effettivamente un peso per la Chiesa e insieme un ostacolo per uno Stato unitario italiano. No, ma se mi consente, vanno divisi i due problemi. Uno è proprio quello territoriale, non è quello territoriale dello Stato pontificio, l'altro è il problema dei rapporti Stato-Chiesa. Tant'è vero che anche Camuno l'aveva anche in mio caso non si è risolto il problema territoriale, il problema dei rapporti Stato-Chiesa è continuato. Però Camuno vedeva come elementi della bilancia, cioè se il Papa rinuncia allo Stato temporale, lo Stato italiano rinuncia a tutta una serie di vincoli che ha sulla Chiesa, no? Che tra l'altro durano per tutto il decennio dal 60 al 71. Il problema degli esequati, il problema del giuramento dei vescovi, la monarchia sicula, eccetera. Professor Roca. Forse è ancora un po' in quest'orbita, ma vorrei porre la domanda più a riguardo del Dellinger teologo e del suo modo di, del modo come lui vede l'istituzione papale e l'ufficio papale con la Chiesa. Perché evidentemente anche rispetto a questo dato, insomma, si può fare il ragionamento che faceva lui tra le cose essenziali o contingenti, gli aspetti, le forme no, che sono frutto di una organizzazione di un dato tempo e quelle che sono le idee di fondo. Ecco, io mi domando se si può aiutare un po' a capire che idea ha mantenuto del papato e del suo ruolo dentro la Chiesa proprio rispetto anche alla missione universale, eccetera, no? Anche al di là della sua crisi teorica. Cioè è arrivato, io dico, non conosco la risposta neanche per ombra, quindi è arrivato a un rigetto totale del papato come tale, dopo il Vaticano I a dire un pasto su Roma un po' che esiste, no, oppure insomma giudicarlo in funzione del verbo, oppure in coerenza con quello che è stato insomma il suo problema di coscienza, l'adesione a certi dati che sono in tutta la storia del cristianesimo sul piano religioso e dogmatico, dico io, non tanto su quello politico. Ecco, insomma, ha ritenuto di vedere, di assegnare al papato un suo ruolo anche dopo, insomma, ha creduto nel papato anche dopo i 70, o insomma lo ritiene una cosa ormai frustrata anche proprio dalla formulazione dei dogmi del Vaticano I. Sì, allora io rispondo con piacere a questa questione, perché prima si dovrebbe dire che opinione aveva avuto della Chiesa Cattolica Romana, della quale il Papa fa partita, che rappresenta in un certo modo. Vi dico che presentavi che la Chiesa Cattolica Romana rimaneva per lui la Chiesa, la fondazione di Gesù Cristo, e che ci sarà un spaglio, il Concilio Vaticano è stato un spaglio del Papa, della Curia e di questo corrente ultramontano, e che aveva speranza, ma le speranze diminuivano anche con l'età, che prima con la morte di Pio IX, e poi anche Leone, non pensava tanto bene di Leone, ci furono certe speranze, piccole speranze, come ci sono state persone che volevano riconciliare con Roma, lasciamo questo. Io penso, ritorno ancora alla Chiesa, perché ha dato i suoi ottimi amici, sono rimasti, l'ottimo amico è rimasto nella Comunione Romana, perché non ha tirato una scomunica, neanche una censura del suo vescovo, benché ci siano stati sforzi del cardinale Manning a farlo scomunicare, il Lord Acton, c'è anche la Lady Blenheim, c'è anche la sorella di Gretzky, questo è interessante, alla quale negli anni 74-75 consigliava di rimanere nella comunione cattolica, e che voleva dire che sottomettersi anche al Papa, ma personalmente come individuo fu piuttosto sfruttato allora di questo, ma pensava che la fondazione, che ci fu uno scopo e una anche per il papato nel futuro, ci pensava, e lo che sperava sempre, la sua speranza, io l'ho citato un po' rapidamente stamattina, che ci verrebbe una volta un papa che toglierebbe questo errore del Concilio Vaticano I e che renderebbe la decisione che toglierebbe la decisione. Questa fu la sua speranza. Volevo tornare sull'ecumenismo un momentino. Sull'ecumenismo. Se ho capito bene, Denunger pensa a risolvere il problema ecumenico attraverso colloqui, conferenze di teologi che non hanno mandati dalle rispettive chiese, cioè prescindendo dagli assetti istituzionali che ha assunto la divisione confessionale. Ecco, da riforma in poi di questi tentativi ce n'erano stati, e non pochi, progettati e da allora anche realizzati. Ora, voglio dire, non c'è qua una certa ingenuità di Denunger di pensare ancora di muoversi sulla strada delle conferenze di intellettuali, indipendentemente dalle effettive istituzioni ecclesiali esistenti sul tappeto per risolvere il problema ecumenico? In sostanza, non aveva consapevolezza dei precedenti fallimenti storici di questa strada? Non so, come lui, perché mi lascia un po' perplesso, insomma, voglio dire, mi pare strano che Denunger non conoscesse e non fosse consapevole del fatto che battere una strada a più riprese, progettata e concretamente fallita, potesse avere ancora un senso. Sì, ma allora che era l'alternativa? Si deve dire allora il ritorno o la chiamata di Pio IX, allora, di ritornare all'ovile romano. Questa era l'alternativa, e non c'era un'alternativa perché le chiese sono state immobili, le chiese in un certo senso, la chiesa russa ortodossa non fu da muovere, il vescovo greco Licurgos di Tenos, mi pare che fu che fu uno dei più aperti, perché aveva fatto studi in Inghilterra, e lei vede e sa che la chiesa greca di oggi è la chiesa una dei più retrograda, la gerarchia, io voglio dire, retrograda e antiromana nel suo affetto ancora oggi, Io dico che ci deve essere una certa naività, una certa, ho parlato di una euforia post-vaticana, e l'elemento anti-romano fra protestanti, non di meno che Dellinger sia stato molto sincero nella sua ricerca e nella croissance de sa recherche alors d'une union entre les chrétiens. Perché queste conferenze di Bonn sono state dopo tre secoli il primo incontro fra teologi russi e protestanti, sono stati parecchi protestanti. In quel momento non era possibile ancora, è stato il caso di individui isolati, precursori, sono stati precursori delle conferenze di Losanni Edinburgh, che hanno in questo secolo inaugurato questo movimento ecumenico del lato protestante. Però, ecco, ad esempio, un teologo come Giovanni Nepomuceno Bartolotti, no? nella Austria di Giuseppe II, si muove nella stessa direzione, fa gli stessi progetti, e sono progetti che cadono totalmente nel vuoto. Come si chiama? Bartolotti. Nel cattolico, insomma, ecco, a Fulda si uniscono cattolici e protestanti, credo sempre durante, poco dopo la patente di tolleranza, no? Proprio sulla spinta di tanta speranza, di tanta euforia della patente di tolleranza, si uniscono cattolici e protestanti, teologi, si mettono insieme, 6 e 6, discutono per un po' di tempo e poi cosa succede? Ancora niente. Ecco, quello che volevo dire è che forse la spinta utopica che deve esserci per raggiungere l'ecumenismo può prescindere dall'ingenuità quando ci sono dei fallimenti precedenti. Non riesco a vedere spinta qui utopia e ingenuità, vedo ancora in Dellinger un pochino troppo connesse. Sì, è vero, ma io penso che fare qualcosa in questo senso è meglio che fare niente dentro e non siamo ancora, siamo lontano, siamo più avanzati, ma non siamo ancora, abbiamo ancora una grande strada davanti a noi. Anche noi abbiamo le istituzioni, ma abbiamo anche il peso delle istituzioni oggi, e forse una delle ragioni perché non avanza l'ecumenismo in paesi tedeschi, perché i teologi hanno fatto una grande passi in avanti e la base non segue. Almeno dicono che i vescovi conservatrici allora fanno molto caso di questo argomento. Il popolo non vuole, non è maturo ancora. E io domando scusa perché vado con i piedi fuori dalle mie scarpe, perché non mi occupo più di storia risorgimentale, ma è proprio di queste questioni, le quali sono in molte altre ignorantissime. E non vorrei neanche che fosse considerata provocatoria, vero, questa mia domanda, ma tra quelle lettere di italiani ce n'è una di cui adesso mi sembra Terazzi di Bologna, era Giacomo Terazzi, non ricordo, di Bologna, in cui tra le tante altre lettere che provengono di consenso a Dellinger, questa è anche un'altra, sono due soltanto che provengono dall'ambiente italiano, questa è violenta proprio contro il Dellinger. E lo rimprovera perché è un problema però molto interessante anche dal punto di vista generale, perché soltanto lo accusa di aver accettato fino a un certo punto la evoluzione dogmatica all'interno della Chiesa, evoluzione nel senso di aggiunzione di nuovi dogmi a quelli già precedenti, esistenti, e poi di essersi fermato di fronte all'ultimo dogma, che è quella dell'infallibilità pontificia. Avete accettato tutti, avete accettato tacitamente anche quello dell'Immacolata Concezione, E perché adesso improvvisamente, di fronte a questo dogma dell'infallibilità pontificia, volete contestare questa innovazione che distinguerebbe il vecchio cattolicesimo da questo nuovo, creato con la generazione del dogma dell'infallibilità pontificia? C'è il grosso problema che si pone, che è quello di dire, ma insomma, il contenuto di questa fede, cattolica, e di questa confessione, era già fisso fin dall'inizio, adesso con l'aggiunzione di quest'ultimo dogma si cambia le carte in tavola, insomma, ecco, per il film in un modo accademico, ma abbastanza. E questo richiamo però al dogma dell'Immacolata Concezione, di averlo accettato e non accettare più poi quello dell'infallibilità pontificia, dà secondo me la misura del fatto che nel Dellinger entravano anche problemi esclusivamente di natura politica, oltre che quelli di natura teologica. E non dimentichiamoci che la proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia è stata la motivazione diretta per cui, per esempio, nei paesi asburgici, il giorno dopo, sulla Wiener Zeitung, a Vienna usciva un piccolo trafiletto e adesso, revochiamo la patente imperiale del 1855 perché la nostra convenzione era con la Santa Sede, che aveva quella immagine e quel contenuto che aveva prima, adesso non è più, siamo in una posizione diversa. Domandami. È una considerazione sufficiente o perlomeno tale che aiuti a dire che il Dellinger, oltre che gli aspetti teologici, eccetera, eccetera, aveva anche presente e in un modo determinante quello che erano le conseguenze politiche della proclamazione del dogma di infallibilità pontificia? È molto interessante, io lo dico questo, io penso che è vero che avendo il plauso di tutto il mondo liberale nel tempo del Concilio Vaticano, primo perché la definizione dell'infallibilità e delle prerogative papali e della giurisdizione immediata, potestas immediata, del Papa fu considerato come estensione del sillabo. E per il mondo intellettuale e non cattolico e cattolico cattolico liberale forse. E in questo senso aveva il plauso di tutti gli uomini colti dell'epoca, degli intellettuali, di tutto questo. Forse contribuiva a farlo un poco più sicuri in tutto lo che diceva e che opponeva, ma io penso che questo non spiega niente nella mente di Dellinger, che pensava che aveva accettato il dogma del Mariano, che l'aveva accettato un poco, non con troppo simpatia, ma in 70 diceva che in tutta la tradizione cristiana i prerogativi papali che toccano la persona del sommo pontefice sono frutto di una corruzione che comincia nella Chiesa nell'Ottocento e che si lascia, che si può controllare storicamente. L'altro doma era un doma di fede teologica, e già, ma questo è lo frutto di errori, e poi di errori dell'assolutismo papale che va sempre più grande nello sviluppo storico. E questa affermazione e questo pensiero si è affermato da lui soprattutto negli anni 60, non l'avevo in 50, non l'avevo in 40, e sull'influsso allora del pontificato di Pio IX e delle ricerche anche sulle pseudo decretali di pensava che con la connivenza dei papi questa dottrina sarebbe stata, si è elaborata e è una dottrina falsa per la salute della Chiesa. Io devo opporre a questo dogma, non per ragioni politiche, ma per ragioni teologiche. E quando si vede il contesto, la definizione del dogma, summi pontifices decisiones excese, non autemi consenso, ecclesia infallibile esse, questo fu interpretato per lui anche per parecchi vecchi cattolici come una prova dell'assolutismo papale, excese, non autemi consenso, ecclesia, che il Papa potrebbe di sé affermare tale e quale cosa. Si deve tenere in mente che neanche Döllner, benché fu visitato dal segretario del concilio, del vescovo Fessler una volta, ma non aveva la possibilità di studiare le atti. Aveva domandato, prima della sua scomunica, un incontro con teologhi, con i vescovi del concilio. E parecchi vescovi, come il Eiffel, per esempio, l'avevano supportato fino all'ultima ora. E ancora un vescovo nel 61 diceva: io non mi sotto, non mi sottometto. Fu il vescovo Strossmayer, che soltanto nel 73-74 riconosceva i decreti del Concilio Vaticano. Allora vedi che la sua posizione è intimamente e io dico essenzialmente teologica, benché ci siano stati influssi in direzione di opinione pubblica che lo portava e tutto questo. Grazie. Volevo far presente che poteva essere utile la posizione di Giacomo Cassani, che è un teologo, professore ecclesiastico, se non sbaglio, all'Università di Bologna, che è collaboratore dell'Esaminatore, che è il giornale di cui parlava poc'anzi la signorina Trebiliani, e che poi dirige un giornale che è il Rinnovamento Cattolico, che in pratica è su quelle posizioni di critica dell'assolutismo papale, ma non di rottura sul piano teologico, ossia sostiene una posizione riformista abbastanza moderata e presenta sul suo giornale la posizione di Dellinger, la lettera al vescovo di Monaco, in questa maniera, cioè dice che Dellinger non si pone in via di principio avverso ai decreti vaticani, ma critica il modo in cui questi sono venuti fuori, ossia è anche una obiezione filologica che, secondo Cassani, Dellinger fa, cioè io non posso accettare che voi diciate che è giusta la posizione della infallibilità papale basandola su certi fatti storici che in realtà non esistono, cioè su certi precedenti storici che in realtà non esistono. E il Cassani dice, da questo punto di vista, Dellinger ha perfettamente ragione, cioè da questo punto di vista filologico, diciamo, sì, ha ragione, perché storicamente dice: io come scienziato non posso accettare allora, conseguenze da premesse sbagliate. In questo senso io penso che Dellinger è profeta anche del futuro, perché la questione dell'infallibilità ci ha detto negli ultimi 15 anni più di un sussurro, cioè ci ha dato molti problemi fino all'affare e l'affare Kuhn, la censura ecclesiastica di Kuhn finora. Allora, io penso che lo sviluppo storico del concilio, della dottrina dell'infallibilità non si è fatto. Per me il dogma dell'infallibilità e dei decreti Vaticano sono stato psicologicamente, non teologica, ma come un grido della Chiesa ad affermare la sua sopravvivenza in un mondo che non ci credeva più, concentrandosi sul Papa, sull'istituzione, sull'indicazione che c'è verità nella Chiesa e in fondo questo è stato come un grido ma istituzionalizzato e come era la formula del grido, l'infallibilità papale. Ma l'elaborazione teologica di tutto questo è parzialmente ancora a fare e io penso che non hanno diritto quelli che, diritto nel senso teologico, quelli che consideravano l'infallibilità, la parte teologica come la soluzione dei problemi per la Chiesa, per il futuro. Io penso che non sia... Aderisco un pieno a quanto lei dice e colgo l'occasione anche di informare, noi abbiamo il mese prossimo, sì, per parte dell'Istituto di Scienze Religiose, qui un convegno sul papato, no? Come istanza ecumenica, e lì farà una relazione il professor Holtmeier di Bochum, no? Appunto sul ruolo anche dogmatico che ha avuto, diciamo in termini dell'ingegnere, quel tanto di verità, quel germe di verità che nell'opposizione della minoranza conciliare del Vaticano I pur esisteva e che è arrivato in modo insufficiente ad esprimersi nella formulazione conciliare, pur avendo, essendo riuscita a evitare certi estremi che potevano essere peggiori, no? Ecco, il recupero di quel tanto, questa è la tematica, per quello che ho capito, sulla relazione con il Statuto, che ce l'ha già mandata, ormai era riguardo. Io sono molto contento che Potmaier viene perché, al mio parere, Potmaier e Kasp hanno esposto il più chiaramente, meglio lo sviluppo anche storico, in un certo modo, in una versione popolare, delle prerogative papali, in un piccolo volume che è stato distribuito l'anno scorso, due anni fa, per la visita del Papa in Germania. Quell'esposizione del Potmaier è eccellente come una sintesi, perché Potmaier ha fatto anche studi storici sullo sviluppo della dottrina dei poteri papali nell'Ottocento. E una dei suoi importanti lavori No, ma è bello le tesi conclusive di questo libro, Un Felbarkeit und Souveränität di Potmaier, che c'è poi il collegamento anche con quel che diceva il professor Corsini, cioè l'affermazione in qualche modo di una sovranità papale attraverso la proclamazione dell'infallibilità in concorrenza con gli stati, insomma, ecco. In qualche modo. Che non era però. E qui si ritorna a il disegno politico di Pio IX non era questo, no? La tesi di Spadolini l'ha chiarito, Pavanero, e qui proprio quel riferimento che adesso ha fatto Consenius, il professor Consenius, è esattissimo. Ha parlato di un grido, Pavanero, in un momento in cui si disfaceva tutta quanta quella che era la grande società cattolica di un tempo, di fronte al liberalismo e di fronte anche agli stati nazionali, eccetera, pare, almeno questa è l'interpretazione sul piano storico e non teologico, che la volontà di Pio IX, seguita poi anche dal Concilio, forse è stata quella di dire, almeno all'interno di quanto resta della cattolicità, Ravennero crea un punto di riferimento preciso, Ravennero, che non possa oscillare o tanto. Non era fatto nei confronti dell'esterno. Politicamente è stato compreso così. Pensate a quella che è stata la Russia cattolica, che ripeto, il giorno dopo ha detto adesso basta, il concordato, ma era fatto per l'interno della Chiesa, un grido per ritornare ad una solidarietà interna a quella che era la società cattolica. Ma la maggioranza pensava che questo grido fu udito fuori e che tutto il mondo venne verso la Chiesa. C'è un problema di partenze adesso. Quello che vuole ancora domandare. Sì, solo che c'è un treno adesso. Chi prende il treno, scusate, delle 5.09? Mi pare sia 17.30. Ah, sì. Ecco, loro non... Voi partite il treno. Stanotte. Ecco, allora casomai chiederei il favore se qualcuno può accompagnare giù. Ecco. Così non strozziamo la discussione e adesso... Non so, a proposito volevo ricordare due osservazioni, no? E poi... Arrivederci la prossima. Buona domenica, arrivederci. Ciao, signor, ci vediamo al seguito. Arrivederci. No, non ci vediamo. Vorrei fare due osservazioni che sono abbastanza contrastanti, no? Ecco, una questa che... Sì, è vero, è un grido di sopravvivenza in un particolare contesto storico, ma mi sembra questo contesto storico di arcarsi, di trovare un punto di riferimento, mi sembra che sia iniziato già con il Concilio Tridentino in un contesto storico ben preciso di formazioni di stati assolutistici. Questa è la prima osservazione. L'altra però, ecco, considerando un pochettino tutta la... l'argomentazione a favore dell'infallibilità del Papa, ecco, io mi ricordo che, ecco, c'erano molte prove bibliche, ecco, c'è tutto uno sviluppo di un'argomentazione biblica a favore di questa affermazione dell'infallibilità del Papa. Ho voluto fare queste due situazioni, cioè la prima è questo arroccamento, questo porsi come potere tra poteri statali inizia con il Concilio Tridentino. Ecco, molta parte si deve alla Curia, molta parte si deve all'elaborazione papale all'interno della dottrina del Tridentino. Questa è una parte. Dall'altra, bisogna però riconoscere, ecco, se ben ricordo, c'è tutto uno sviluppo di argomentazione scritturale a favore di questa affermazione sull'infallibilità del Papa. Rimandiamo al prossimo seminario, però, perché se no su questo non finiamo più. No. Una domanda che volevo porre da chi è andato al discorso interno ecclesiastico, come è stato detto, no? Una prospettiva appunto di una problematica che è tipicamente ecclesiale. La domanda è questa, perché evidentemente insomma qui c'è stata una polarizzazione della Chiesa sull'unico vertice che è stato il Papa. Mi pare di aver sentito da un suo accenno che Döllinger a un certo punto parla anche di un episcopato nazionale, cioè di una Chiesa nazionale soprattutto. Poi ho presente il caso della dichiarazione di Pio IX che conferma la dichiarazione dei vescovi tedeschi, per cui anche dopo le definizioni del Vaticano I l'Episcopato non è meno insomma autorevole entro la Chiesa, i vescovi rimangono sempre vescovi, no? Proprio per decisione che è importante per tutta la Chiesa universale, per la comprensione anche dei limiti della definizione vaticana, no? Ecco, volevo chiedere se in questo afferrare un altro polo o un altro punto insomma di consistenza che non sia il papato entro la Chiesa, se Döllinger in questo senso ha anticipato, ha profilato, ha sentito perlomeno qualche cosa, eccetera. Qualche dubbio io lo vedo da quel che lei diceva a riguardo del suo modo di comprendere Lutero solo dal punto di vista della giustificazione, perché gli manca dunque il concetto del sacramento, della sensazione dell'importanza del sacramento come tale per la Chiesa, no? Ma tuttavia, ecco, oggi mi sembra attuale chiedersi se, in quanto Dellinger abbia visto, sempre nella prospettiva ecclesiastica pura, nell'orbita interna ecclesiale, abbia visto e abbia sentito anche l'istanza di mettere in evidenza altri elementi su cui la Chiesa riposa che non siano soltanto il vertice romano. Sì, io penso che il 48 ci fu là, soprattutto ci fu nessun nazionalismo in questo, il nome è un poco male, e male per esprimere la cosa che vuole, voleva la vita sinodale di nuova della Chiesa tedesca, che infatti allora dopo sono venute le conferenze di Fulda, le conferenze episcopali tedesche, che sono forse anche troppo concentrati sopra i vescovi, e io nel fondo della sua argomentazione ci fu un'altra concezione, ma si deve sempre dire senza direzione antipapale, ma non fu accettato, non fu accettabile. Lei accenna a quella dichiarazione di Pio IX ai vescovi tedeschi, che Olivier Rousseau ha tirato fuori di nuovo perché si è messa anche nel Denzinger, perché quella non ha più fatto impressione sul Dellinger, perché nel Concilio Vaticano I si dovrebbe cercare delle enunziazioni sui vescovi con il microscopio. Allora c'è molto tutto questo elemento che accenna, l'accento è sul Papa, nella dichiarazione dell'infallibilità l'accento è sul Cristo quando si vede il testo, ma in pratica tutta la riflessione del Vaticano I sulla Chiesa come comunità manca. Il documento è stato preparato, ma il Papa fu in fretta per avere l'infallibilità personale e separata da individuale, un poco. E anche i vescovi, il Concilio Vaticano II è stato il concilio dei vescovi, si può dire, in certo modo, delle chiese locali, ma non entrava nell'argomento di Vaticano I. E per questo allora fu difficile per... No, io domandavo se Dellinger questa istanza, che sì, certamente il Concilio Vaticano I ha trascurato, sì, se lui ha sentito di coltivarla e di sì, promuoverla. Sì, sì, aveva la sensibilità per tutto questo che il Vaticano I non considerava abbastanza. Sì, e c'è una interessante selezione delle sue pubblicazioni fatta per il padre, lamentato padre Finster Hölzel, nella collezione di Heinrich Fries, su Dellinger come Wegbereiter come precursore heutiger Theologie, della teologia di oggi, dove è mostrata l'attualità di Dellinger, che ha infatti avuto quelle preoccupazioni delle quali parla. C'è un piccolo volume nei 10 o 15 volumi di Fries sulle Wegbereiter heutiger Theologie di Finster Hölzel, dove l'attualità precisamente di Dellinger è. Qui si potrebbe appunto, si è incamminati su una strada che potrebbe condurre a nuovi seminari, e uno è già il mese prossimo, appunto, a metà maggio, no? 19-20 maggio. Ecco. Basta, allora noi ringraziamo ancora il professor Consenius e chiudiamo. Grazie. Anche grazie a lei, allora.